giornata pigra, salto subito a bordo di una tigra e comincia a cambiare la giornata. Occhiali da sole, testa abbassata, si parte, pronti a chiudere le porte. Prima e seconda, il piede sull'acceleratore affonda, poi terza e quarta in pace, la tua testa è matta. E la quinta si usa poco come la retro marcia, ma andiamo a fanculo sbirri con paletta e torcia. Questo è stile puro sotto nome di tuning, dalle tue parti si fa gara che più king. Sono miliardi le modifiche da applicare e sono anche tanti i soldi da cazzare. È una vera e propria mania, tigra viola con vetri neri da spia, e se la vedi sfrecciare contro vento noterai anche la scritta color argento. Bella cool, sai che ti dico, mettiti il nos per una automobile da Fast and Furious. Master Trench che si spacca lo stesso, auto, hip hop e sesso. Guarda là c'è un tipo in bici e noi fisso non lo lasceremo in pace. Si fischia con tromba a 5 toni, alza il volume, sembrano che cadono qui i tuoni. Un temporale di botti in modalità SPL, per le tue orecchie sono solo sberle e folle. Ma è passione nell'elaborare carrozzeria acustica, motore, niente più di originale. Come quando la tiri su rettilineo in accelerazione, sentirai il rombo dell'iniezione diretta. E sul tuo impianto audio la gente ci smanetta, perché la spari a più di 1000 watt. Sin da me voglio sia sat. Bella cool, sai che ti dico, mettiti il nos per una automobile da Fast and Furious. Master Trench che si spacca lo stesso, auto, hip hop e sesso. Scende la notte, non si vede più niente qua su, ne accendiamo i neon e la coloriamo di blu. Ovunque passiamo lasciamo segni, ricordiamo il parasole rotto con 2 o 3 pugni. Va bene, piccola parentesi, sfrizionate da mandarti in estasi. E anche se i pneumatici sono diventati un melone, si nota, vedi, spicca il cerchione in lega, sporco con polvere delle pasticche, con i peli del culo che crescono sulle tue chiappe. E infine, cosa posso dirti? Ti saluto così, un saluto stiloso, by Nathan C.